faccio io. Puoi fare quello che vuoi, ma chi comanda sono io. No, no, non ci sto. La libertà non è così. Tu manifesta ciò che vuoi, poi lo so io se pensarla come te. Nessuno ti seguirà, sarà un vuoto intorno a te.